14:43 minuti, scolabrodo di Radio Popolare, spostiamoci in un altro mondo, il mondo letterario dei cyberpunk. Se i poeti sono i legislatori non riconosciuti del mondo, gli scrittori di fantascienza sono i suoi buffoni di corte. Noi siamo pazzi saggi che fanno capriole, pronunciano profezie e si grattano in pubblico. Possiamo scherzare delle grandi idee perché le nostre sgargianti origini nelle riviste popolari ci fanno apparire innocui. Come scrittori di fantascienza abbiamo ogni ragione di godercela, abbiamo influenza senza responsabilità. Bruce Sterling. Sotto il nome cyberpunk si inquadra un movimento, o come dice Gibson, una tendenza, o forse sarebbe meglio in questo caso usare il termine informatico file, che interpreta ed integra al suo interno una serie di fenomeni che vanno dal letterario al filosofico, dal musicale al tecnologico, dallo stilistico al comportamentale. E visto questo caleidoscopico frammentarsi del fenomeno, risulta difficile trovare una definizione univoca. Ci viene quindi a questo punto in soccorso quell'indispensabile scienza che è l'etimologia. Cyberpunk deriva infatti dalla doppia radice cibernetico e punk, e se per punk spero che non ci sia bisogno di una mia definizione, cibernetica invece sono, con la parola cibernetica, si riferisce a quelle tecnologie che simulano le attività mentali e percettive elettronicamente. Tecnologie che tra l'altro vedono proprio in questi ultimi decenni il loro massimo fiorire e che cercano una sempre maggiore interazione tra uomini e sistemi informatici cercano di aumentare l'affinità, o meglio aumentare il grado di simulazione di questi sistemi informatici rispetto ai ben più complessi sistemi neuronali. Il termine coniuga quindi e sintetizza al suo interno la fredda vibrazione elettronica della tecnologia con l'irruenza rabbiosa ed anarchica del punk. Il movimento cyberpunk è nato inizialmente come tendenza letteraria, grazie ad alcuni grandi nomi quali Bruce Sterling, già citato prima, John Shirley, Rudy Rucker, Lewis Shiner, ma soprattutto mi preme ricordare quel William Gibson, scrittore così innovativo e geniale, visionario, che ad aver marcato non solo la letteratura di fantascienza, ma un intero sistema comportamentale. Abbiamo sfruttato Sergio Giuffrida, collaboratore di Radio Popolare, per darci un rapido quadro della situazione letteraria cyberpunk. Una definizione di cyberpunk potrebbe essere al tempo stesso difficilissima da dare a parole, se avessimo un computer forse ci riusciremmo più facilmente, però cyberpunk fondamentalmente è una forma letteraria e anche di costume che di fatto ha avuto il suo massimo espressione tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, e la fine degli anni 80, e di fatto prende direttamente il suo modo di essere, il suo modo di fare, il suo modo di proporsi proprio come comunicazione attraverso il metalinguaggio dei computer. La caratteristica principale del cyberpunk come formula letteraria e come modello proprio di tipo anche di stimolo nei confronti, diciamo, del pubblico, sia quello del fatto che il cyberpunk usa il modem. Col modem entra nella grande, diciamo, nei romanzi la grande matrice, cioè il sistema del futuro che in un certo senso controlla, è onnipresente. Vincere la matrice, combattere la matrice, entrare dentro la matrice è la forma di liberazione massima di questi o cavalieri o cowboy, se vogliamo dire, telematici del futuro, che attraverso il meccanismo del cyberpunk, cioè praticamente di una sorta di anticonformismo elettronico, giocano le loro carte contro un sistema chiaramente corrotto, decadente, chiaramente controllato dalle multinazionali. Il futuro è prossimo venturo, ci sono queste influenze molto forti del Giappone, tant'è vero che molti termini vengono, la Yakuza e cose, vengono proprio veicolati dal mondo del Giappone, perché l'America di oggi ha paura del Giappone, e questo anche a livello del cyberpunk, la tecnologia giapponese prevarica quella americana. Abbiamo detto che è un movimento soprattutto, perlomeno inizialmente, letterario, e come tutti i movimenti letterari avrà avuto dei padri. Questo è vero, e di solito normalmente si fa coincidere questo con la grande esplosione dell'interesse in America soprattutto, cioè all'estero, verso il computer, che più o meno coincide con quella grande kermesse che c'è tra la metà e la fine degli anni 70, quando il computer diventa, il PC diventa veramente una sorta di mezzo, veicolo di comunicazione molto forte e molto vivace. Per certi versi i padri fondatori sono due, che sono anche i più grossi autori del genere, e sono William Gibson e Brad Sterling, che sono praticamente i padri anche della realtà virtuale, per certi versi a livello letterario. Queste persone in realtà, c'è da dire una cosa che potrà sconvolgere secondo me i nostri ascoltatori che in questo momento sono appassionati di realtà virtuale e di cyberpunk letterario. Né Bruce Sterling né William Gibson hanno mai toccato un computer, aborriscono il computer, sono sicuramente le persone più distanti mentalmente dal computer. Voi direte, come cazzo hanno fatto a inventare la realtà virtuale e il computer? Perché loro hanno fatto una cosa molto intelligente che hanno fatto molti altri scrittori. Hanno visto il crescere, il trend di una moda, hanno colto questa moda prima che altri la trasformassero proprio in un evento vero e proprio, e hanno sfruttato questo loro tipo di visione, un pochino come Verne nell'inizio del Novecento, che ha saputo cogliere le realtà, diciamo, delle invenzioni successive, e l'hanno trasposta in letteratura, creando un modulo, un comportamento, un modo di essere, un modo di fare, neologismi, sinonimi, giochi di parole o altro, che poi virtualmente, come è successo nella fantascienza di Gernsback, di Asimov, di Verne, di Wells, sono entrati nell'uso comune, e quindi molti dei neologismi inventati da Gibson e da Sterling oggi sono i neologismi che questi hackers, questi scatenati cyberpunkisti usano nel loro comportamento, nel loro modo di fare, nelle loro comunicazioni, nel loro, diciamo, giocare a tutto campo telematico. Molto spesso si parla per lo più di Philip K. Dick e di Ballard. In che senso hanno influenzato queste? Ecco, bisogna dire la verità. Quando tu giustamente dici Philip Kendall, Dick e Ballard, dici il riferimento più diretto che si ha da un punto di vista di stile narrativo. Stile narrativo perché Ballard, anticonformista, antesignano per un modo di costruire romanzi sicuramente fuori dalle norme, fuori dalle regole, invertendo quelli che sono i meccanismi classici del racconto, sono sicuramente alla base del meccanismo molto sciolto, molto spezzato, proprio, come dire, estremamente virtuale proprio del modo di scrivere di Sterling e di Gibson. E dall'altra Kendra Dick, che è stato uno dei più grandi scrittori, diciamo, contemporanei di un modernismo e di una, come dire, visionarietà nell'essere moderno, nell'accettare i nuovi canoni prima di molti altri suoi colleghi e coetanei. Quindi sicuramente Dick da un lato per quanto riguarda al sociale, cioè a quella che era la visione metodologica, sistematica, virtuale della fantascienza sociologica trasposta in questo caso in chiave elettronica. Ballard, linguaggio, anticonformismo, trasformazione delle regole, nuovi schemi, nuovi modelli, new wave inglese, hanno creato loro quello che è stato l'humus, il fermento di cui due giovani appassionati e entusiasti, fanatici come erano Sterling e Gibson, quando hanno deciso, iniziato a scrivere o altro, hanno deciso di cogliere certe tematiche proprio di loro, ma non so, per esempio, mi viene in mente certi altri autori inglesi come per esempio Christopher Priest, o ancora un certo tipo di tecnologia molto forte, perché in realtà poi Sterling e Gibson sono americani, quindi vengono da una scuola che è la scuola prevalentemente, diciamo, del mondo degli Asimov o dei Paul, quindi come tale l'alta tecnologia, quindi c'è anche un meccanismo dietro di dire questa fatta da loro non è né science fantasy né tantomeno super wonder story, è proprio l'hard science fiction, la fantascienza tecnologica allo stadio puro, qui vista non tanto in chiave antropologica come non so certi altri, come alcuni dei nuovi autori della nuova generazione che visualizzano altre strade. Loro hanno scelto come loro modello di dire entriamo in pieno nell'hard tecnologia elettronica, telematica. Esiste ancora la corrente letteraria cyberpunk? La risposta ufficiale e totale è incontrovertibilmente no. I cyberpunk sono morti, letteralmente parlando, alla fine degli anni Ottanta. Anche perché, tanto per darti un'idea, Sterling e Gibson hanno realizzato insieme, proprio ultimamente, un romanzo che si intitola The Different Engine, in cui il loro stile, il loro canone, il loro modello prosegue lungo la strada che hanno creato loro, invertendo completamente le regole che avevano creato loro. Da una letteratura estremamente sciolta, spezzata, aggressiva, forte, grintoso, telematica, si sposta in una chiave apparentemente conformista, apparentemente legata, in fior di penna. I protagonisti sono due scienziati del mondo vittoriano. La strana Different Engine che viene creato è un computer nel mondo della regina Vittoria, con tutto quello che di orpelloso, di artificioso e di artefatto può esistere in ciò. Due mondi completamente diversi. Hanno usato sempre una chiave che era quella del computer, ma hanno voluto scegliere un'avventura letteraria di stile e di conformismo completamente opposto. C'è uno stile, una poetica nello scrivere? La poetica forse la possono più che ogni altro apprezzare proprio gli appassionati di telematica e di uso del computer, perché è molto difficile per un lettore normale entrare nel linguaggio di un Gibson o di uno Sterling. Perché? Perché materialmente loro usano veramente questo linguaggio molto secco, frasi brevi, calambur di parole, molto però tecnicistiche, giochi di situazione che sono intraducibili se non per chi conosce in parte questo tipo di mondo. Loro attingono, anche se non hanno mai usato il computer, a tutto ciò che è la vasta messe di glossario, di vocabolario di quest'ambito, e la giocano a tutto campo. Generalmente il loro modello è un modello preciso. La storia inizia con questo tipo di avventurieri della telematica un po' decadenti, ricordano un po' certe canzoni di Gaber, secondo me, gente che si pone all'atere, alternativi totali, che però a un certo punto, tra una birra e un'idea geniale, si avventano alla tastiera, si lanciano nella grande galoppata, entrano e fanno. Mi viene in mente di Gibson La notte che bruciamo Chrome, che è proprio l'esempio classico di un modo di scrivere e di comportarsi, di un'epica telematica a tutto campo. Forse quelle, come anche Mona Lisa Cyberpunk o laggiù nel Cyberspace, per esempio, sono alcuni dei romanzi, tra le cose pubblicate dalla Mondadori, dalla Nord, da Urania, che uno si può trovare più facilmente e che possono essere, tra virgolette, accettati di più. C'è il senso di una civiltà che decade all'interno di un mondo tecnicistico, verticistico, completamente paradossale, in cui vivere una sorta di avventura retro in una chiave estremamente moderna come linguaggio, come gioco di tecnologia e come tutto. Lo trovo affascinante per certi versi. Hit me. Abbiamo chiesto una definizione di cyberpunk anche a Fabio Zucchella, esperto di fantascienza nonché collaboratore di Rockerilla. È un fenomeno molto difficile da circoscrivere. Comunque, in ogni caso, il dato saliente a riguardo è che è un caso, secondo me, straordinario di sincronismi e di sincretismi culturali, nel senso che non è solamente un fenomeno letterario, riguarda anche la musica, il cinema, certe forme di artistiche, diciamo così, piuttosto ibride, che riguardano anche la performance art. C'è questa grande disparità di mezzi espressivi che comunque possono essere ricondotti ad un unico grande principio generale, ed è questa interazione tra tecnologia e uomo, no? E umanità. Tanto che il paradigma proprio dell'umanità viene costantemente ridefinito, no? Tutto, la cosa essenziale nei libri, nei testi letterari, cyberpunk, è che il concetto di umanità viene ridefinito fino a assumere appunto dei connotati che ho chiamato postumani, persone con microchip dietro le orecchie, questa interazione tra uomo e computer nella matrice, Case, il protagonista di Neuromancer, che viaggia, diciamo così, in questo non spazio tridimensionale che è quello della matrice, per rubare dati, eccetera. Yeah! E ringraziando Fabio Zucchella e Cyber Giuffrida, passiamo ora a una bibliografia minima del cyberpunk. Iniziamo con l'autore sicuramente più significativo e più importante, è l'unico veramente noto qui in Italia, cioè William Gibson, di cui sono stati tradotti per l'editrice Nord Neuromante, con una traduzione, a dire il vero, un po' faraginosa e difficile da leggere. Invece molto migliore è La notte che bruciamo Kron, pubblicato tra gli Urania, numero 1110, cercatelo nelle bancarelle, lo troverete. Invece pubblicati per la Mondadori Fantascienza sono Count Zero e Mona Lisa Cyberpunk. Per invece Bruce Sterling è stato pubblicato per la Nord La matrice spezzata. Un altro autore significativo è Rudy Racker, di cui in un Urania, il 1030, è stato pubblicato Il Signore dello Spazio e del Tempo. Sempre sul lato cartaceo, consigliamo inoltre l'antologia Cyberpunk, indispensabile per chiunque voglia avere un approccio critico al cyberpunk, e prodotta dalla Shake Underground, che è la stessa casa che produce Decoder, fanzine fondamentale per la cultura underground, di cui parleremo anche in una prossima puntata. Per quanto riguarda i fumetti, ottimo è Cyber, uscito ultimamente in Italia, che tratta appunto fumetti cyberpunk, in cui ci sono anche articoli di cultura cyberpunk scritti da Antonio Caronia, che sentiremo la prossima volta, e dalla stessa redazione di Decoder. Per quanto riguarda invece una filmografia minima, benché non esistano dei film propriamente cyberpunk, a parte The Iron Man e di Tatsumi, difficile comunque da reperire, e Hardware, un film inglese di prossima uscita, se mai uscirà, consigliamo per un'estetica cyberpunk sicuramente Blade Runner di Ridley Scott, film fondamentale. E poi invece per quanto riguarda più un'etica cyberpunk, forse è significativo Robocop di Paul Verhoeven e altri film quali Videodrome di Cronenberg, oppure Max Headroom e altri film di fantascienza di questo tipo. E dandovi appuntamento a settimana prossima, in cui parleremo delle tecnologie cyberpunk assieme a Antonio Caronia, chiudiamo con una citazione di Samuel Delany. La fantascienza non tenta di predire il futuro, piuttosto ci offre una distorsione significativa del presente. .15:01, con la brodo di Radio Popolare, avete sentito quindi il primo viaggio per quanto riguarda il mercoledì a Radio Popolare, il primo viaggio nella cultura cyberpunk, questa volta dedicato alla letteratura. Il prossimo appuntamento è mercoledì prossimo. Chiusura, prima di lasciarvi un appuntamento. Sì, il presidio di questo pomeriggio alle 17:30 alla lapide di Giannino Zibecchi in corso 22 marzo, angolo via Cellini. Il presidio è stato indetto da alcuni collettivi e studenti dell'Allende, dell'Omni San Donato, di Trenno, di Bertarelli, e poi aderisce anche al Circolo per la Rifondazione Comunista delle Facoltà Umanistiche. Ripetiamo, il presidio alla lapide di Giannino Zibecchi in corso 22 marzo, oggi pomeriggio 17:30. Grazie a tutti per l'ascolto, la linea Onda su Onda, ci sentiamo domani 14:30, speriamo puntuali. Big A, essere grandi. davvero interessante i risultati dei suoi studi. Mica male, qui si scappa un bel Nobel, poi vedremo un attimino. Il Nobel della bigiata? Il Nobel della bigianza si dice. Della bigianza? Sì, ecco, ah, interessantissimo. È un termine dotto che vuol dire intelligente. Dotto, sì, sì. Dotto che significa intelligente, sì, bigianza. Ok, ringraziamo Licciolo De Lici per la sua collaborazione, per la sua esauriente descrizione. Io probabilmente lo inviterò a intervenire ad altre puntate perché i suoi studi sono veramente interessanti. Però prima di chiudere io vorrei sentire un po' chi ha il telefono perché abbiamo una telefonata appunto in linea. Sì? Ciao, sono Marco. Ciao Marco, da dove chiami? Da Mezzago. Da Mezzago, ok. Cosa ci volevi dire? Volevo dirti che vorrei proporre un club. Un club per bigioni? Sì, mi sembra una bella idea. Sì, ma cosa vorresti diventare? Presidente, tu? Presidente? Ah, sì, club presidente, italiano bigioni. Sarebbe una carica troppo alta per me. Perché non sei un grande bigione? Sì, però sai, il potere dalla testa. Senti una cosa, ma a livello nazionale? Proprio una cosa alla grande vorresti fare? Sì, per una bella cosa alla grande. Per coordinare un po' tutte le bigiate, magari... Non so, si potrebbe organizzare una bigiata insieme in qualche città, in qualche posto. Magari si possono anche organizzare i pullman a questo punto. È vero, un bel pullman. Perfetto. Okay. Senti una cosa. Andiamo a Roma assieme, una bella giornata. Andiamo in mattinata e torniamo la sera. Bravo, sì. Non so come la pensano i tuoi. Comunque, senti una cosa. Magari richiamaci un'altra volta. Tu cominci a pensare quale può essere la sigla e il simbolo, no? Così magari la prossima volta se ci pensi, ci richiami, ce lo dici. Ok, va bene, ci sentiamo. Ok, ti ringrazio, ciao. Ciao. Ok, io mi congedo dopo questa telefonata davvero simpatica, dandovi appuntamento a settimana prossima e salutando tutti i nostri cari abigi ascoltatori. Avete sentito la quarta puntata di Azzonzo, rubrica dedicata a chi bigia. Il prossimo appuntamento con Azzonzo è per venerdì prossimo. Infine, prima di concludere e lasciare la linea onda su onda, una segnalazione per questa sera: concerto reg con The Victis questa sera alla Calypso a partire dalle 23. Il genere musicale è reg, calypso, lovers e funky reg. Il calypso si trova ovviamente in